Mi chiamo Tobia Botta, faccio parte di Tichino dal 2005, quindi praticamente dall'inizio, a dire la verità da qualche mese dopo l'inizio. È 5 anni che ne faccio parte e che giro cortometraggi ogni mese. È diventata una bella abitudine girare cortometraggi, creare, esprimermi, divertendomi con un gruppo di amici che ho trovato in Tichino. Sono Mario Fabio e in realtà sono un simpatizzante dell'associazione Tichino, sono un po' un infiltrato, anche se devo dire che con Daniel Bilenco ed Eric Bernasconi, che sono due membri storici del comitato, sto portando avanti un progetto di sceneggiatura, visto che io dopo il Master Holden a Torino sto provando a fare quello, cioè scrivere sceneggiature in questo piccolo, seppur piccolo ambito che è Tichino, questa associazione spontanea che si è creata qui in Ticino sull'onda dell'entusiasmo. Molte delle persone che fanno parte appunto del comitato sono anche persone che lavorano nel settore. Io sono Margherita Schoch. Ho lavorato come attrice in Germania per circa 25 anni, svizzera interna, sempre in tedesco. Ho scoperto Tichino forse circa 2 anni fa. Come attrice ero ferma da un po' di tempo. Questo mi ha dato la possibilità di sperimentarmi di nuovo, nuovamente. E di metterti in discussione. E di mettermi in discussione. Nome, dai, Christian, 34 anni. 118 kg, il sopracciglio destro che gira verso l'alto. Faccio parte di Tichino da 5 anni. 4 anni, 3 anni, non lo so, non so neanche quanti anni è. Non è importante, so esattamente come è iniziata, con una mail, quindi in piena modalità Tichino, con qualcuno che diceva un progetto ed era mi serve, questa è la storia, una storia raccontata in 2 righe, mi servono degli attori, io sono andato e ho recitato nel mio primo corto 4 anni fa ed è stata una bella esperienza, mi sono divertito molto, c'era anche Tobia che diceva come mettere la camera, dove mettere le luci, c'era Alessandro Marcionni, è stato divertente. Sono Paolo Ramoni, direttore artistico del Film Festival Centovalli, sono qui appunto per rappresentare il Film Festival Centovalli nella serata celebrativa di Tichino per il 5° anniversario e ho conosciuto Tichino proprio grazie al festival. Io lo conoscevo già precedentemente per una mia passione generale legata al cinema, conoscevo il movimento Kino a livello internazionale, sapevo che esisteva questa cellula in Ticino. Ho avuto modo di avvicinarmi ai ragazzi di Ticino grazie all'iniziativa del festival, che è un festival pensato proprio per valorizzare e dare visibilità al cinema ticinese. Al suo interno ospita una sezione competitiva, il concorso per cortometraggi Spazio Ticino, che dà spazio proprio ai filmmaker ticinesi che operano sul territorio ticinese facendo vedere i loro cortometraggi, perché è appunto un concorso per cortometraggi. Mi chiamo Ursula Rampoldi, sono un'animatrice socioculturale, lavoro in clinica psichiatrica a Mendrisio. Sono entrata in contatto con Tichino inizialmente, mi piace dirlo, proprio attraverso un corso di quelli che sono stati organizzati l'anno scorso sulle varie fasi della produzione video e quindi un corso di montaggio, perché avevo cominciato a scoprire questo mondo del video e questo corso è stato proprio... Ti ha aperto il cuore. Sì. Io mi chiamo Daniel, ho 36 anni e quando ne avevo 31 un amico regista mi ha parlato di questo Tichino che era appena sbocciato nella Svizzera italiana. E per curiosità ho frequentato una serata e mi è subito piaciuto lo spirito così un po' goliardico, molto alla buona, che lo contraddistingueva. E è stato molto facile inserirsi. Qualcosa che mi ha accompagnato. Andava di fare un determinato progetto, un determinato mese, e l'ho fatto, ma la cosa che mi ha colpito di più è stata la forza del gruppo. È stato veramente bello vedere adesso, dopo 5 anni, raccogliere tutto ciò che abbiamo seminato fino a oggi. È veramente stata una grande, grande soddisfazione. Il tuo ultimo cortometraggio? Lo presento stasera, si chiama Pur Fam ed è dedicato al numero 5. E quindi c'è stata questa veduta di intenti comune che ci ha trovato subito in sintonia. Diciamo pure che fare cinema, anche se magari Tichino ci si prova, non sempre ci si riesce, è comunque un'attività in cui questa cosa non si fa da soli e quindi imparare a lavorare in gruppo e portare avanti un progetto insieme, vederlo cambiare grazie alle idee e all'apporto degli altri è un insegnamento ed è una formazione che può servire anche poi per fare la stessa cosa magari in ambiti professionali più, più alti, anche se poi alto e basso è sempre una questione di punti di vista. Il cinema non è un mondo dorato, è fatto di persone come noi qui a questo tavolo, e quindi il fatto di trovarsi a doversi scontrare o comunque a confrontarsi aiuta. In questo senso Tichino appunto aiuta chi vuole fare cinema o chi vuole fare. Chi vuole fare, va bene. La cosa che secondo me è più bella in assoluto è vedere una propria idea che si realizza, quello sicuramente, però è anche bellissimo nel senso di leggerezza che si prova quando si fa una cosa piccola per qualcun altro. È capitato proprio per la serata di oggi che un ragazzo abbia chiesto a me e a Daniel di leggere un dialogo e noi siamo andati, cioè, completamente deresponsabilizzati, abbiamo preso in mano queste battute, le abbiamo lette per un'ora e mezza e ci siamo veramente divertiti. Ed è un bellissimo esercizio. Se non ci fosse stato Tichino, cosa avresti fatto? Penso che se non ci fosse stato Tichino, io, per quanto riguarda la realizzazione dei cortometraggi, non avrei mai fatto niente. Nel senso, se ho fatto qualcosa è esclusivamente per il fatto che esiste una cosa come Tichino in Ticino. In un certo senso si pensa al Ticino come una realtà piccola, almeno io lo dico, una regione molto piccola che non ha queste possibilità di realizzazione grandissime, mentre invece Tichino dà la possibilità anche a persone ticinesi di fare il loro filmino, diciamo così, sì, quello che vogliono. Questo mi piace molto, trovo sia molto poetico. Tichino è proprio un posto da mettersi in discussione, perché quando facciamo le nostre serate, che guardiamo i diversi corti che sono stati fatti, tutti sono molto diversi, cioè a volte magari uno si chiede ma che strano questo qua. Io trovo questo molto bello perché questa diversità arricchisce molto, no? Si cerca di capire anche quello che uno fa, magari così diverso da, per esempio, da me stessa, no? Questa diversità anche generazionale che poi alla fine porta magari a rendersi conto che l'età non conta poi così tanto quando si parla di progetti così veri, così creativi, così liberi anche, no? È vero, hai toccato il tema età, posso anche dirlo, l'anno prossimo faccio i 70 anni, mi trovo molto bene però anche con persone giovani e ho ancora molta energia, sicché io ho da trasmettere ma ricevo anche molto. Ho potuto realizzare il mio corto, cioè ho avuto un'idea. Il primo in assoluto della tua vita? Sì, che ho realizzato, sì, l'ho realizzato con Tobia, cioè Tobia mi ha fatto la camera, eravamo invitati nell'ambito di Enigma Elvezia, che c'era qui a Lugano, la mostra, mi era venuta un'idea e ho chiesto a Tobia se faceva la camera e l'ho recitato, ho recitato dentro questo film e così l'abbiamo fatto. Era anche molto bello perché anche Tobia aveva un'idea. E quando io gliel'ho chiesto, al primo momento mi fa, ma non è tanto il mio genere, però lo faccio volentieri, però devi tenermi poi l'ombrello quando io faccio le mie scene, perché ho delle scene esterne, pioveva proprio di rotto. La collaborazione con Tichino è molto importante per il Film Festival Centovalli. Sì, l'idea della collaborazione è proprio quella, perché Tichino è un grande contenitore, il filmmaker che operano nel Ticino insieme ad altre associazioni video amatoriali. Poi Tichino ha uno spirito particolare, riassume in sé persone che lavorano nel mondo del cinema e nel panorama audiovisivo dal punto di vista professionale, e anche invece altre persone che si misurano con questo mondo in maniera amatoriale. Per cui per noi è importante la collaborazione con Tichino, proseguiremo, già l'abbiamo avviata nel 2009, ospitando Tichino nelle Centovalli e dando visibilità ai lavori dei cineasti, perché così si chiamano i membri di Tichino, e poi proseguiremo anche nel 2010 con questa collaborazione, ospitando Tichino nelle Centovalli per realizzare un mini cabaret, un evento che loro curano periodicamente, che realizzano periodicamente, aperto a tutti. Questa volta ci sarà appunto questo cabaret nelle Centovalli all'interno del festival. E quindi sì, cioè mi si è aperto un mondo poi attraverso questo, la possibilità di fare video, che trovo un mezzo interessantissimo per esprimere creatività, ma anche volendo anche dei messaggi comunque in genere. Me stessa sicuramente, no. Maniera molto interessante perché molto immediata, molto, no? Molto facile per raggiungere le persone. E poi è stato molto interessante per me perché ho portato questo anche nel mio ambito lavorativo. Quindi io con i pazienti che frequentano il Club 74 dove lavoro abbiamo prodotto dei video che poi abbiamo portato qua. E questo è stato veramente molto bello per noi e per Tichinò come scambio, come per noi come finestra, per portare qualcosa di nostro. La cosa che in fondo a me piace di più fra quelle che ho fatto è stato una sorta di reportage sugli eventi che sono seguiti l'anno scorso alla morte di quei due ecuadoriani che erano morti nel furgone qui a Monte Carasso, all'area di sosta, cui appunto erano seguite delle manifestazioni, eccetera. Io avevo raccolto delle immagini e poi avevo raccontato un po' la storia, l'evento, ed era proprio, voleva essere proprio un piccolo documento per non dimenticare e qualcosa anche per attirare l'attenzione su questa questione. Quello è stata una cosa che mi è rimasta nel cuore. Credere, per così dire, in Tichinò è stato da subito molto facile, perché è credere in qualcosa che è facilmente realizzabile. Da un lato perché la tecnologia oggigiorno permette a tutti i cittadini, tutte le persone, di avere i mezzi per fare dei cortometraggi dignitosi con pochi soldi. Credere è facile perché è tutto basato su qualcosa che mi piace molto, che è la reciprocità, ovvero io so recitare, tu sai montare, lui sta a scrivere, l'altro sa fare le riprese, e in quattro persone si può fare un cortometraggio. Ognuno mette a disposizione delle competenze o delle macchine, degli strumenti, e si può fare un cortometraggio. Quindi è credere in qualcosa di estremamente pratico e concreto. È bello. È bello. E in 5 anni sono stati fatti 400 cortometraggi, insomma.